Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. E buona giornata da Anna Migliorati, sono le 13 in punto, effetto giorno, per cercare di capire come sta andando questa giornata. E allora cominciamo con i nostri titoli. L'Egitto chiede l'intervento dell'ONU in Libia, domani ci sarà il Consiglio di Sicurezza, l'Italia cauta però punta ancora sulla diplomazia. I migrati che premono sulle coste, preoccupa anche il maltempo nel Mediterraneo, in Europa cresce anche il sentimento antisemita, misure di sicurezza rafforzate. Le opposizioni sono salite questa mattina al Colle, Mattarella alla prima prova lavora per ritrovare unità, Grillo accetta l'invito, vedrà il Presidente della Repubblica. Inchiesta Ruby, nuove perquisizioni e l'inchiesta Terra. Sotto esame ancora le ragazze dei festini e gli avvocati del Cavaliere. A Bergamo trovata un'altra prova regina intanto, in un'altra inchiesta, quella per l'omicidio di Yara Gambirasio. Tassisti in piazza col naso rosso e la protesta contro Uber, Torino invasa. Dopo il saluto privato, domani quello pubblico, addio al signor Nutella, ma la domanda c'è, ora la Ferrero resterà italiana? E allora eccoci qui, cominciamo queste le notizie di oggi, cominciamo ancora naturalmente dalla pagina che riguarda la Libia, perché la situazione è sempre ancora molto tesa e le prossime potrebbero davvero essere ore decisive. Il presidente egiziano Al-Sisi si appella al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, non si fermano però in raid in Libia che come sempre portano con sé anche l'inevitabile conto delle vittime, sicuramente dovrà decidere anche l'ONU, ma l'Italia è in prima linea. In prima linea per i rapporti con quel paese, lo è anche per la vicinanza delle coste e per la pressione dell'arrivo di immigrati. Questa mattina c'è stato un vertice a Palazzo Chigi, la linea italiana, come dicevamo, resta per ora quella della diplomazia. Andrea Viali, è così? Sì, è così. Buongiorno. Dopo lo slancio iniziale, il governo in queste ore sta frenando sull'ipotesi di un intervento militare, almeno in tempi rapidi, in Libia e punta prima a coinvolgere la comunità internazionale per fare il punto della situazione e anche un po' per definire le prossime mosse. Il premier Renzi stamattina ha riunito a Palazzo Chigi i ministri di esteri, interni e difesa, Gentiloni, Alfano e Pinotti. Al termine l'esecutivo ha ribadito l'impegno italiano per una forte azione diplomatica in ambito ONU e il sostegno ad un'iniziativa urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che promuova stabilità e pace in Libia. Domani, tra l'altro, Gentiloni riferirà alla Camera, ma nel frattempo c'è da dire sempre sul fronte politico che il cambio di atteggiamento da parte del governo sta alimentando nuove critiche delle opposizioni. Forza Italia oggi accusa l'esecutivo di pressappochismo e confusione. La Lega invita a bloccare gli sbarchi di immigrati prima di pensare ad un intervento militare, contro il quale si schierano invece SEL e Movimento 5 Stelle. Questo è il fronte interno, ma a rivolgersi in modo diretto all'Italia oggi è anche Hamas, il movimento palestinese, che pur condannando le violenze dell'ISIS in Libia avverte il nostro paese che un intervento militare sarebbe considerato come una nuova crociata contro il mondo musulmano. Anna. Grazie allora ad Andrea Viali. Ma dicevamo, in Libia però di fatto già si combatte, già ci sono i raid e lo fa l'Egitto. L'Egitto non si ferma e dopo i raid di domenica notte, con il via libera di Washington, ha ripreso a bombardare la Libia anche la notte scorsa. Almeno 7 incursioni aeree su Derna, colpite le postazioni dei miliziani del califfato. Si parla di decine di morti, colpito anche il tribunale della Sharia, istituito dall'ISIS. I raid sono parte del diritto dell'Egitto all'autodifesa per proteggere i nostri figli, ha detto il ministro degli esteri egiziano Shoukry. Allo stesso tempo il presidente Al-Sisi è tornato ad appellarsi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per adottare una risoluzione per un intervento internazionale. Non c'è altra scelta, ha aggiunto Sisi, alla luce dell'appello dei libici all'Egitto ad intervenire. La riunione urgente del Consiglio di Sicurezza è stata sollecitata congiuntamente con la Francia, che aspira a un ruolo di leadership in questa crisi. Ruolo a cui però l'Italia non intende abdicare, sempre nell'ambito del quadro ONU. Un eventuale intervento internazionale in Libia, tuona Hamas, sarebbe come una nuova crociata contro paesi arabi e musulmani da parte di altri paesi come l'Italia, che usano il pretesto di combattere il terrorismo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è poi il fronte tutto italiano, quello degli arrivi sulle coste. Ne parleremo più avanti con la nostra inviata Raffaella Calandra, che è andata a vedere cosa succede, e poi anche quello della sicurezza interna, aumentata la sorveglianza dopo, tra l'altro, l'attentato anche a Copenaghen. l'attentato di Copenaghen, l'avanzata dell'ISIS in Libia, le minacce dirette dei jihadisti islamici contro Roma. È un quadro che ha fatto innalzare l'allerta ai massimi livelli in Italia, ma soprattutto nella capitale, dove 500 militari arriveranno nelle prossime settimane a presidiare strade e obiettivi sensibili, dalle stazioni ferroviarie alle metropolitane e centri commerciali. L'ordine è già partito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e verrà formalizzato nel prossimo Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, che dovrebbe tenersi domani. Una riunione convocata dal prefetto Giuseppe Pecoraro, il quale aveva più volte denunciato la carenza di organico delle forze dell'ordine nella città, così come lo aveva fatto il sindaco Marino. Intanto sono già scattate nuove misure di sicurezza per i monumenti come il Colosseo, Castel Sant'Angelo, dove sono stati introdotti i metal detector, intensificati anche i controlli sui treni da parte della Polfer, mentre i sindacati di polizia denunciano la carenza di forze dell'ordine in periferia. Il Viminale intanto lavora anche sull'altro dossier, quello che riguarda il rischio di un aumento delle ondate di profughi, con le operazioni di soccorso in mare che diventano sempre più pericolose. È per questo che si pensa anche a nuove regole di ingaggio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allarme di sicurezza, di cui anche questo torneremo a parlare più avanti ad effetto giorno, vi anticipo già, col presidente della comunità ebraica romana. Ma intanto, in questo quadro decisamente non semplice, la politica cerca unità sul fronte libico, ma è spaccata sul fronte delle riforme. È stata la mattina dell'esordio in qualche modo di Sergio Mattarella, come dicevamo nei titoli. Mattarella, che ha incontrato i partiti di opposizione, altri li incontrerà al Quirinale nei prossimi giorni, compreso Grillo. Allora, come è andato questo esordio, Elisabetta Fiorito? Sì, infatti si può parlare del primo giro di consultazione del neo presidente al Quirinale. Sergio Mattarella ha ricevuto le opposizioni questa mattina, Forza Italia e SL. Nei prossimi giorni saliranno al Colle Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Infatti Beppe Grillo ringrazia Mattarella per aver risposto alla sua richiesta di incontro, che avverrà probabilmente giovedì. Il primo a salire oggi è stato Renato Brunetta per Forza Italia. Ha consegnato al presidente un appello in 25 punti in difesa della Costituzione, e a fine colloquio Brunetta ha spiegato che Mattarella auspica la ripresa del dialogo tra maggioranza e opposizioni sulle riforme. Conoscendolo, dice il capogruppo azzurro, userà tutti gli strumenti previsti per ripristinare un clima di collaborazione. Matteo Renzi poi avverte Brunetta: stia attento alle sue sparate. Poi è stato il turno di Sinistra, Ecologia e Libertà. Nichi Vendola ha espresso al capo dello Stato l'allarme per il Parlamento umiliato, sottolineando che non si governa l'Italia a colpi di mano. Ricordiamo che ieri, nella direzione del PD, il premier Matteo Renzi ha auspicato la ripresa del dialogo con le opposizioni, ma ha detto no ad out a te, Anna. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Cambia in qualche modo, cambiano gli equilibri, cambia la scena politica, cambiano anche alcuni provvedimenti in arrivo. Ci sarà da votare la fiducia al milleproroghe, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, ricorso alla fiducia che appare scontato da parte di Palazzo Chigi, vista la necessità di una seconda lettura al Senato, con il provvedimento in scadenza il prossimo 3 marzo. Diverse le novità intanto delle ultime ore introdotte nel passaggio in commissione bilancio. Il testo sarà in aula nel pomeriggio. Partiamo allora dal blocco degli sfratti. Arriva una sorta di mini proroga per 4 mesi del blocco. Si prevede che il giudice possa disporre la sospensione dell'esecuzione dello sfratto fino al 120° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, per consentire il passaggio da casa a casa. Ed ancora, partite IVA, viene prorogato al 2015 il vecchio regime dei minimi al 5%, quanto all'INPS l'aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi si ferma al 27,7%. Altro capitolo, le frequenze TV. In materia radio-televisiva è stata approvata infatti solo una riformulazione tecnica di vari emendamenti, che non contiene più, come circolato nei giorni scorsi, il ritorno dei canoni sui livelli del 2013. Opposizioni soddisfatte per le partite IVA, ma pronta a dare battaglia sulla fiducia. Non è un passaggio scontato, avverte Forza Italia dopo la rottura del patto del Nazareno. È tutto, linea allo studio. Grazie anche Vincenzo Miglietta. Sul fronte della cronaca, altre novità. Questa mattina arrivano in un caso di cui molto si è parlato, quello di Yara Gambirasio. Yara Gambirasio, il 26 novembre 2010, sarebbe salita sul furgone di Massimo Bossetti. Sui suoi leggings sono stati ritrovati i fili del sedile del camioncino del presunto assassino. Una svolta nelle indagini, frutto del lavoro dei carabinieri del RIS, un elemento che insieme agli altri raccolti, in particolare alle tracce di DNA del muratore di Mappello, rinvenute sugli slip e sui pantaloni della ragazza, potrebbe essere decisivo per l'accusa. La presenza presenza del camioncino bianco vicino alla palestra di Brembate, frequentata dalla tredicenne uccisa, d'altro canto era già stata provata dalle telecamere e dalla testimonianza di un passante. Resta invece da chiarire perché la ragazza sia salita a bordo, se lo abbia fatto spontaneamente, magari per un passaggio, o perché costretta. Bossetti, dal canto suo, dal carcere, continua a professare la sua innocenza, la sua totale estraneità ai fatti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si torna a parlare anche delle inchieste milanesi sulle feste di Arcore. Una serie di perquisizioni sono state eseguite nell'ambito della cosiddetta Rubiter, la terza parte dell'inchiesta che riguarda ancora le cene di Arcore. Hanno riguardato questa mattina un avvocato, Luca Giuliante, una ventina di olgettine, le ragazze ospite presunti festini. In particolare sono state perquisite le ragazze indagate per corruzione in atti giudiziari, e tra queste anche la casa di Ruby a Genova. L'inchiesta Terra su questa vicenda è stata aperta circa un anno fa, dopo il deposito delle motivazioni delle sentenze di primo grado sul caso Ruby a carico di Berlusconi e su quello Ruby 2, che era quello a carico invece di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. Sono più di una quarantina le persone indagate in questa terza inchiesta. Altra inchiesta, quella della Procura di Roma invece, che coinvolge le banche. Anche qui perquisizioni questa mattina. Anna Marino. Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sono ancora in corso, fin da questa mattina intorno alle 9, le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Veneto Banca, società cooperativa per azioni. L'accusa è ostacolo alla vigilanza. Tutte le carte e i documenti sono al setaccio. Sullo sfondo dell'inchiesta ci sono due ispezioni di Banca Italia nel 2013. L'Istituto Centrale aveva chiesto un cambio di governance dopo le ispezioni. Tra gli indagati nell'inchiesta sull'istituto di credito ci sono l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, ora direttore generale, Vincenzo Consoli, e l'ex presidente Flavio Trinca. Ingenti numeri, sono 16 soci di Veneto Banca perquisiti perché destinatari di ingenti finanziamenti, e sono 20 le sedi perquisite, tra cui quella di Montebelluna nel Trevigiano. Un centinaio di finanzieri, Veneto Banca è una cooperativa popolare non quotata ma con azioni diffuse tra il pubblico, che rientrerebbe nella riforma. Piena fiducia esprime nelle autorità il presidente del consiglio di amministrazione Francesco Favotto di Veneto Banca, che nei risultati preliminari del bilancio 2014 lo scorso febbraio, ricordiamo, aveva presentato un risultato negativo per 650 milioni di euro, spiegato dai vertici come un'indicazione della Banca Centrale Europea. E per ora è tutto. Grazie anche ad Anna Marino. Abbiamo parlato della Libia, ci sono anche altre tensioni internazionali che anche questa mattina, anche in questo giorno, continuano a premere. Da oggi al più tardi dovrebbe iniziare il ritiro delle armi pesanti in Ucraina. Angela Merkel, Vladimir Putin e Petro Poroshenko hanno concordato passi concreti per rendere possibile una missione di controllo da parte dell'OSCE. Hanno fatto appello, la Merkel e Poroshenko, si legge in una nota, al presidente russo affinché usi la sua influenza per fermare il fuoco dei separatisti. Ma di fatto sul terreno per ora non si fermano le armi. A Debaltseve si combatte in ogni strada, il cessate il fuoco non viene rispettato, si denuncia da più parti. E come restano le tensioni, in questo caso economiche, anche sul fronte della Grecia, dove prosegue il braccio di ferro tra i partner dell'Eurozona e il governo Tsipras, anche se il filo dei negoziati non è interrotto. Oggi una nuova riunione, quella dei ministri dell'economia e delle finanze a Bruxelles. Spero che la Grecia chieda un'estensione del programma di aiuti e poi potremo applicare la flessibilità, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, entrando proprio all'Ecofin. La prossima mossa, ha detto però, stai greci, noi non possiamo imporre nulla. Ed è stata chiarissimo il portavoce della Commissione Europea, Schinas. Il piano A, ha detto, è che ci sia un accordo a 19, e un piano B non c'è. Però i mercati sono ancora in tensione anche oggi. Torniamo però ancora all'Italia. Ieri la giornata del lutto privato, oggi aperta la Camera Ardente per salutare Michele Ferrero. Chiarimenti importanti anche sull'assetto societario a poche ore dal funerale. Ferrero non è né sarà in vendita. Lo chiarisce senza ombra di smentite Giovanni Ferrero, amministratore delegato del gruppo, respingendo con forza le voci circolate secondo cui l'azienda potrebbe essere ceduta. Illazioni diffuse in un momento doloroso per la famiglia e per l'azienda, precisa Giovanni, erede di Michele, morto sabato scorso, artefice del successo Ferrero in tutto il mondo. Domani l'ultimo saluto. Oggi centinaia di persone sotto la pioggia hanno atteso ad alba l'apertura della Camera bandiera ardente. I cancelli dell'azienda, dove è stato portato il feretro, sono stati aperti pochi minuti dopo le 8. I funerali domani alle 11 nel Duomo di Alba. In coda soprattutto dipendenti con le loro famiglie, ex dipendenti e abitanti dei paesi della zona. Michele Ferrero, molto amato, espressione forte di un intero territorio e di un'imprenditoria familiare, antica, rimpianta. La storia di un uomo che ogni settimana andava in un supermercato, voleva vedere di persona come venivano scelti i suoi prodotti, non si presentava mai come Michele Ferrero, per il direttore del negozio era un tecnico qualunque. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chi non manca di riservarci polemiche in questi giorni è il calcio. Questa volta ci si è messo anche Sacchi, Giovanni Capuano. Sì, è davvero difficile concentrarsi sul calcio giocato, che torna, tra parentesi, questa sera con le prime due sfide degli ottavi di finale di Champions League. Difficile perché dopo le guerre intorno alle ormai celebre telefonate di Lotito, oggi il calcio italiano affronta la bufera per una frase pronunciata dall'ex CT Arrigo Sacchi sull'eccesso di giocatori stranieri in Italia, già a partire dai settori giovanili. Una frase che faceva parte di un lungo ragionamento che poi però è scivolata su questo passaggio. Oggi vedevo il torneo di Viareggio. Io non sono razzista, ho avuto Riker, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, è un'offesa per il calcio italiano. Inutile sottolineare che questa frase sta facendo il giro del mondo. Un'oretta fa, ad esempio, Gary Lineker, grande ex giocatore inglese, oggi commentatore televisivo, ha scritto un tweet: ci sono troppi razzisti nel calcio italiano. E dunque ci troviamo di nuovo, dopo l'estate delle banane di Tavecchio, a difenderci dall'accusa di essere razzisti. Tutto questo mentre si attende nelle prossime ore l'intervento del governo, che deve cercare di sbloriare la matassa creata dalla telefonata di Lotito. Noi ne parleremo oggi. E dalle 15 avremo anche un filo diretto per i nostri ascoltatori a tutti convocati con uno dei protagonisti di questa vicenda, che è Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B, per intervenire. Basta telefonare e prenotarsi 800 24. Allora, 0024. Tutti convocati alle 15, grazie Giovanni Capuano. Il traffico per chi è in viaggio, effetto giorno, tutti convocati anche da noi, perché tra poco torniamo a parlare dell'emergenza immigrazione, dell'emergenza profughi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E le principali notizie di oggi anche per effetto giorno: l'Egitto chiude l'intervento ONU in Libia, domani il Consiglio di sicurezza, l'Italia cauta, punta sulla diplomazia. Immigrati che premono sulle coste, preoccupa anche il maltempo ora nel Mediterraneo. Le opposizioni salgono al Colle, Mattarella lavora per ritrovare unità, Grillo accetta l'invito, vedrà il Presidente della Repubblica. Inchiesta Rubi, nuove perquisizioni e l'inchiesta Terra, e a Bergamo trovata un'altra prova regina per l'omicidio di Yara. L'assisti in piazza col naso rosso e la protesta contro Uber, Torino invasa. L'emergenza in Libia. L'emergenza in Libia ha fatto precipitare una situazione che era già difficile sulle coste italiane. Il 2014 si è chiuso con numeri record di arrivi di profughi, in generale in Europa, in particolare in Italia, molto più che nei mesi delle primavere arabe. Ora tutto sta davvero accelerando in queste ore. Allora, siamo andati a cercare di capire cosa sta succedendo. È andata la nostra Raffaella Calandra, che saluto e che è nel centro di accoglienza di Pozzallo. Buongiorno. Ciao Anna, buongiorno a te, nostri ascoltatori. Allora, con te hai anche un ospite che forse potrà aiutarci di più a capire cosa sta succedendo. Sì, ho con me Murad Issa, che è un chimico tunisino e che è alla guida del consorzio Luoghi Comuni, che gestisce il centro qui di accoglienza. Ma io appunto mi trovo qui davanti al centro d'accoglienza di Pozzallo, nel Ragusano, che è di sicuro uno dei principali avamposti di tutte le emergenze sbarchi. E qui, nonostante la pioggia che forse sentite in sottofondo e le onde alte degli ultimi giorni del canale di Sicilia, continuano ad arrivare centinaia di profughi partiti dalla Libia ormai fuori controllo. Una montagna di sacchi neri qui davanti al cancello contiene i vestiti laceri e fradici degli ultimi sopravvissuti a giorni di navigazione drammatica, visto anche il cattivo tempo, e prima sopravvissuti anche alle violenze degli organizzatori dei viaggi. Questo infatti racconta chi è arrivato in Italia in questi giorni. Ancora oggi altri 640 sono sbarcati a Porto Empedocle, altri 200 a Lampedusa, sono tutti per lo più subsahariani come quelli che abbiamo visto qui, e ad alcuni è stata diagnosticata anche la scabbia. Tutti sono partiti però dalle coste della Libia ed altre migliaia sono pronti a prendere la via del mare, come hanno raccontato anche i profughi di questo centro di Pozzallo, anche appunto al direttore del consorzio Luoghi Comuni, Murad Aissa, qui con chi chiediamo conferma di questo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è praticamente questa la situazione, quella che è stata praticamente raccontata, narrata dalla sua collega, e sono arrivati. Cosa vi raccontano gli ospiti? Oddio, gli ospiti raccontano ovviamente di una situazione purtroppo instabile, insicura in Libia, fuori controllo, e si parla praticamente di centinaia, per non dire migliaia, di persone che sono praticamente cercando di fuggire da quel territorio, soprattutto anche dopo gli ultimi offensive anche da parte, ecco, adesso, sono anche libici ormai che fuggono o no? Adesso non si è verificato, almeno da noi presso questa struttura non si è verificata la presenza dei libici, però credo che rispetto a questa situazione potrebbero verificarsi dei libici, dato che adesso tutti gli stati, i paesi che sono che confinano con la Libia stanno intensificando anche i controlli di frontiera, quindi potrebbero scegliere poi l'Italia per fuggire. Ecco, come la pensano? Sì, Raffaella, dicevo. È molto interessante anche quello che raccontano a proposito degli organizzatori dei viaggi, cioè in qualche modo, anche se non danno un nome a chi gestisce il loro viaggio, fanno capire, diciamo, che le differenze rispetto al passato, perché hanno tutti raccontato di un'organizzazione ben strutturata. Danno una connotazione più, in qualche modo. Più violenta, esatto, una connotazione, esatto, giusto, chiediamolo di nuovo anche a Issa. Parlano di questa organizzazione molto strutturata, che anche con la violenza li hanno costretti a partire, come abbiamo visto anche negli giorni scorsi, alcuni sono arrivati feriti. Tantissimi di loro, confermo ovviamente quello che anche è stato sempre, diciamo, verificato, che praticamente dietro questo fenomeno, questi sbarchi, ormai ci sono queste organizzazioni criminali che hanno capito che per loro questo settore immigrazione potrebbe essere un campo fertile, quindi tantissimi di questi sono stati costretti, nonostante le condizioni atmosferiche, a lasciare il paese. Ed economicamente loro vantaggioso. Ecco. Grazie allora a Raffaella Calandra e al suo ospite. Così i racconti che arrivano a Pozzallo di chi è scappato dalla Libia. C'è anche un altro fronte, però quello antisemita, ne parleremo più avanti, perché ci sono anche le tensioni all'interno dell'Europa, ne parliamo tra poco. Facciamo invece un balzo dalla Sicilia a Torino, perché cosa sta succedendo a Torino? Che in piazza ci sono i tassisti di Uber a protestare, i tassisti che protestano contro Uber. Gioco di parola, je suis taxi legal, così dicono. Miriam Corgiat a Torino, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Sì, stanno parlando in questo momento in Piazza Castello i rappresentanti dei tassisti che hanno incontrato il viceprefetto. Nell'incontro si è parlato di una possibile intensificazione dei controlli di contrasto all'attività di Uber a livello locale, ma anche di una pronuncia nazionale, quindi si prospetta un incontro anche a livello di Ministero dei Trasporti. Oggi circa 1000 persone hanno partecipato alla manifestazione, oltre ai tassisti di Torino ce n'erano anche da Roma, Napoli, Milano e Genova. Una manifestazione che, come hanno detto i tassisti, è una manifestazione contro l'abusivismo di Uber e per la legalità, come ha ribadito anche il vicepresidente della sezione piemontese dell'Unione dei rappresentanti di tassisti italiani, Federico Rolandi. Noi non diciamo che Uber è illegale, diciamo che i servizi che offre sono in abuso e nell'illegalità, ma noi non siamo contro Uber, noi siamo contro chiunque non sottostia all'attuale legislatura in materia. È un diritto di ogni cittadino e chiunque operi sul territorio della nostra nazione deve sottostare alle regole postulate dai legislatori, punto e basta, non c'è molto da dire. Per quanto riguarda la vostra professione, sarebbe Uber chi non sottostà a queste leggi? anche chiunque perpetra l'abusivismo nei fatti nel nostro settore. Ma la nostra è una battaglia di civiltà non solo ristretta al comparto taxi, ma a tutto, contro ogni forma di abusivismo. Allora, così la scena invece che si presenta in questi minuti a Torino. C'è una piccola pausa, abbiamo ancora molto altro di cui parlare però. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed ecco le notizie di oggi. L'Egitto chiede l'intervento ONU in Libia. Domani ci sarà il Consiglio di sicurezza. L'Italia però cauta, punta ancora sulla diplomazia. Gli immigrati che premono sulle coste, preoccupa anche il maltempo ora nel Mediterraneo. Misure di sicurezza intanto rafforzate. Le opposizioni al Colle, Mattarella lavora per ritrovare unità e Grillo accetta l'invito, vedrà il Presidente della Repubblica. L'inchiesta Rubi, nuove perquisizioni e l'inchiesta Terra, sotto esame le ragazze dei Festini e gli avvocati del Cavaliere. A Bergamo trovata un'altra prova regina per l'omicidio di Iara. Ma c'è anche la borsa. Borse in diretta. Borsa quanto mai sotto i riflettori, mentre prosegue, come dicevamo nella prima parte di Effetto Giorno, anche il braccio di ferro tra i partner dell'Eurozona e il governo Tsipras. Bruxelles stamattina l'ha detto nuovamente chiaramente, sta ai greci, la palla in mano ai greci, non si può imporre nulla, però un piano B non c'è, di certo la situazione ancora tiene comunque sotto pressione i mercati. Isabella Tasso dell'agenzia Radio Corp, buongiorno. Buongiorno. Allora, come sta andando la giornata? Ma i mercati hanno aperto negativi questa mattina dopo lo stallo appunto sulla questione Grecia emerso ieri alla riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona a Bruxelles, in particolare Atene che ha aperto con un meno 4,5%. Ci sono state poi delle dichiarazioni abbastanza distensive rilasciate dal ministro ellenico delle finanze Varoufakis all'ingresso della riunione dei ministri europei questa mattina, che hanno un po' allentato la tensione. I listini si sono riportati intorno alla parità, il negoziato insomma è appeso a un filo, ma non domina il pessimismo, almeno sui mercati. Milano fa più 0,3%, Londra più 0,2%, Parigi è sulla parità, Francoforte fa meno 0,2%, Atene ritornata in positivo più 1,2%. Ecco, noi abbiamo raccontato anche dell'inchiesta che riguarda ancora le banche. Su questo fronte la giornata come va? Ma su questo fronte la giornata va comunque abbastanza bene, ci sono ancora acquisti sul Monte dei Paschi, fa più 1,7%, e acquisti sulle principali banche del listino. Anche in questo settore resta l'appeal speculativo in vista di un movimento di aggregazione nel settore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il governo si permette di dividere forzando su una riforma costituzionale votata di notte? Questo è il messaggio che abbiamo dato. Le costituzioni, le riforme costituzionali devono unire. Chiediamo al governo di ripristinare condizioni di vita parlamentare che siano degne di un paese democratico e civile. Ringraziamo il presidente Mattarella per l'ascolto. Allora, opposizioni salite questa mattina al Quirinale, l'esordio l'abbiamo sentito anche con la nostra Elisabetta Fiorito per il neo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è molto da ricomporre dopo la bagarre in aula sulle riforme, dopo l'Aventino che ha visto una larghissima opposizione. È toccato questa mattina, l'avete sentito, a Forza Italia con Brunetta, è toccato a SEL con Vendola, ma al Quirinale andrà anche la Lega e andrà anche Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle. La ringrazio vivamente per le cortesi espressioni di augurio che ha voluto inviarmi in occasione della mia elezione. Nella sua lettera auspica di potermi incontrare al Quirinale. Desidero assicurarle che sarò lieto di riceverla prossimamente in una data che i nostri uffici potranno concordare. Queste sono parole del neo presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviate direttamente a Beppe Grillo. Dunque si incontreranno. Francesca Businarolo, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera. Buongiorno, benvenuta a Effetto Giorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Dobbiamo aspettarci una stretta di mano tra Grillo e il presidente Mattarella, allora? Allora, senz'altro ci sarà un incontro. La risposta del presidente Mattarella, intanto ci fa piacere, avevamo richiesto questo incontro ancora il 4 febbraio e spero si potrà parlare con il presidente dei temi che ci stanno più cari, ovvero della lotta alla corruzione, del reddito di cittadinanza e ma soprattutto queste riforme costituzionali che ci hanno visti un po', come dire, protestare in aula ma con i toni che avete visto, insomma, sempre molto di apertura, sempre molto di collaborazione. Alla fine come il Movimento 5 Stelle chiedeva onestà, ha chiesto 3 emendamenti e adesso li sapete. Alla fine abbiamo chiesto soltanto che venisse approvato il referendum propositivo senza quorum e neppure quello è stato... Senta, l'ho sentita un po' imbarazzata nel definire il comportamento in aula, perché vi siete un po' pentiti? Dei modi? No, assolutamente, piuttosto ho ricevuto molto spesso delle critiche da parte di persone che magari non erano neanche in aula, che ci hanno accusato di aver gridato ladri o qualcos'altro. Noi abbiamo solo chiesto onestà e di converso ci sono stati purtroppo colleghi del PD che hanno insultato una mia collega e avete visto le scene, insomma, tra Sella e PD che si sono azzuffati. No, assolutamente, il mio gruppo ha mantenuto un comportamento serio, tenuto un comportamento, almeno noi come trattative e come capigruppo abbiamo collaborato fino alla fine. Allora, come vi è parso invece questa mattina questo esordio di Mattarella? Abbiamo sentito ovviamente Brunetta e Vendola all'uscita, però insomma i toni come vi sono parsi? Io penso che il presidente Mattarella debba cominciare a incontrare tutte le forze politiche. Incontrerà Grillo, mi pare di capire, quindi incontrerà anche voi. Incontrerà anche noi, questa mattina ha iniziato con SEL e Forza Italia, anche se so per certo che da calendario, insomma l'agenda del Presidente non era stata prevista, perché sa in questi giorni si stanno un po' riorganizzando per la segreteria eccetera. Sono contenta anche che il Presidente abbia aperto le porte del Quirinale ai cittadini, perché di ieri la notizia che lui insomma ha preso questa decisione. Vi è piaciuta tanto, questa? Sì. Personalmente penso che il Quirinale come Parlamento debba essere quanto più possibile fruibile da parte dei cittadini, quindi senz'altro una buona opinione del Presidente fino a questo punto. Infatti noi non abbiamo mai, abbiamo sempre aspettato di vedere un attimino quelle che sono le sue posizioni. Ci aspettiamo una presa di posizione forte rispetto ai decreti legge piuttosto, perché molto spesso in questi anni abbiamo visto passare decreti legge che avevano dei fortissimi requisiti di incostituzionalità e purtroppo il Presidente Vabbè, della appena cominciato, vedremo. No, ma vedremo cosa d'accordo. Succederà. Esatto. Allora, non so se la stupirò, però è piaciuto anche a noi l'annuncio ieri di Mattarella di aprire il Quirinale. Allora, grazie Francesca Businerolo, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo chiesto al collega del Sole 24 Ore Marco Carminati di farcelo fare un po' in anteprima in maniera virtuale un tour al Quirinale. In effetti poter visitare tutti i giorni il grande palazzo del Quirinale sarà una grande occasione. Si tratta di un palazzo che fu prima reggia dei papi, poi divenne la sede di Napoleone, ma Napoleone non ci ha mai messo piede, e poi tornò di nuovo ad essere la reggia papale fino all'arrivo dei Savoia, che ne fecero la reggia sabauda, e alla fine nel 45-46 divenne la sede attuale della Presidenza della Repubblica. Tutto nacque dal fatto che i papi si allontanarono dal Vaticano perché lo ritennero un luogo non troppo salubre e pensarono di andare ad abitare sul colle più alto di Roma, quindi il Quirinale, e lì venne costruita una piccola villa inizialmente per Gregorio XIII nel 1583. Da questo momento in avanti comincia la storia del Quirinale, divenne veramente la sede del Papa Re, del Papa Monarca. Oggi noi veniamo invitati ad entrare nel cortile d'onore, nel cortile principale, saliamo uno scalone colossale e veniamo subito immessi in una serie di locali che sono tra i più imponenti del palazzo. Per esempio entriamo nella sala oggi detta dei corazzieri, ma un tempo era la sala regia, e non a caso, se solleviamo lo sguardo, si vedono degli affreschi più unici che rari, dove si affacciano da piccole balconate tutti gli ambasciatori della terra venuti a fare omaggio al pontefice. Quindi i pittori immortalano questo straordinario ONU tra virgolette del tempo. Da questo ambiente, che oggi viene utilizzato per tutte le grandi cerimonie, per esempio anche l'insediamento del Presidente della Repubblica, si accede alla parte sacra del palazzo, cioè alla grande cappella palatina, che si chiama Cappella Paolina perché venne fatta costruire da Paolo V Borghese. Questa cappella ci lascia stupefatti, perché? Perché è grande esattamente quanto la Cappella Sistina, non le stesse decorazioni ovviamente, ma le stesse misure sì, e venne utilizzata per molti secoli appunto per il conclave che si faceva qui in questa cappella, qui nel Quirinale, e non nella Cappella Sistina. Poi da qui si comincia la serie, l'infilata straordinaria di lunghi corridoi, sale, le sale, la galleria di Alessandro VII. La galleria porta poi dove vive, diciamo, ufficialmente il Presidente della Repubblica, cioè nella villa del Mascarino, nella piccola villa che è stata all'origine del grande palazzo. E poi non ci è possibile, ma dobbiamo immaginare che nella torricina del Quirinale, quello che noi vediamo sempre dove sventola il vessillo presidenziale quando il Presidente è presente, la bandiera italiana, la bandiera europea, ecco, quello lì è diventato una piccola sala da pranzo per pranzi di Stato particolari importanti, naturalmente per poche persone. Continuiamo il nostro percorso e ci imbattiamo in una sala colossale, è quella dove avvengono di solito i giuramenti dei presidenti del Consiglio, ed è il grandioso salone da ballo. Questa è una sala completamente rifatta dai Savoia nel gusto un po' neobarocco che avevano i Savoia, in particolare la regina Margherita e Umberto. Un'occhiata, il percorso prevede che la si dia anche al giardino. I giardini sono bellissimi, tenuti in modo straordinario, e ci sono delle curiosità, il coffee house per esempio, dove i papi andavano a prendere questa, soprattutto nel Settecento, questa novità di bere il caffè. E poi c'è un curiosissimo organo idraulico che era uno dei motivi di attrazione per i viaggiatori del Settecento che venivano in visita del Papa, ma anche per chi adesso ogni giorno potrà entrare nel Palazzo del Quirinale. E grazie per questo tour virtuale allora al nostro Marco Carminati. Nel frattempo siamo riusciti a raggiungere un altro ospite che dovevamo avere nella prima parte. Vi faccio sentire però prima, sentite un po' cosa è successo a Parigi. Un giornalista israeliano cammina per Parigi con addosso la kippah, il tradizionale copricapo utilizzato dagli ebrei maschi, un po' come quegli esperimenti delle ragazze che in molte città del mondo camminano per strada. Che succede? Insulti, intimidazioni, minacce. Sono in francese, il concetto comunque è chiaro. Insomma, l'Europa torna a scoprire l'antisemitismo in queste giornate, in questi mesi di tensione altissima col mondo islamico. Saluto Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sarebbe successo così anche se questo filmato l'avessero girato a Roma? Ma guardi, intanto io mi trovo in questo momento a Berlino, nel mio terzo giorno di visita, un po' di lavoro e un po' di vacanza, e ho visitato anche qualche museo, devo dire, girando come faccio sempre pure a Roma con la kippah in testa. Non è successo assolutamente nulla, devo dire che vi è un'attenzione da parte delle forze dell'ordine qui in ogni luogo ebraico, sinagoghe, musei e ogni genere, che apre il cuore alla speranza, una sensibilità e anche una mobilitazione particolare. E ovviamente per parlare di Roma, no, a Roma non succede, almeno fino ad oggi non succede, il clima è completamente diverso e le motivazioni chiaramente hanno anche, possono anche essere ben e spiegate. Questo però insomma che ci lascia ben sperare, insomma, sul clima che è diverso nel nostro paese. Io l'ho invitata perché volevo farle una domanda. Netanyahu ha invitato nel fine settimana a lasciare l'Europa. Cosa da più parti, dalla Francia, dalla Germania, si è detto no, gli ebrei europei sono europei, restino qui. Dall'Italia cosa si dice? Beh, intanto dall'Italia si dice che tante persone partano comunque, a prescindere, ma lo fanno per motivi completamente diversi. Nella nostra comunità abbiamo circa 300-400 persone che negli ultimi 4-5 anni stanno partendo, sono partite, si trovano benissimo in Israele, lo fanno per ideali, lo fanno perché Israele è un paese che offre socialmente per i giovani e per gli studenti opportunità, come si fa magari quando si sceglie una università, in particolar modo perché ci sono delle eccellenze, il paese delle start-up. Ma gli inviti che fa Netanyahu sono gli inviti che fanno da sempre tutti i leader israeliani, delle destre, ma delle sinistre, momento, dei progressisti. Ma in questo momento non si parte. In questo momento è un atto dovuto, ma questo è un atto dovuto. L'unica distinzione che noi dobbiamo fare è esattamente questa. Israele non è solo il paese che, non è solo l'unico focolare ebraico al mondo, il luogo dove magari nelle aspirazioni, nelle preghiere di ogni ebreo c'è la speranza di poter tornare, ma è anche il paese che si è andato a prendere gli ebrei che sono stati in pericolo. Basti ricordare per esempio la grande operazione, quella che in una notte portò più di 10.000 persone, 15.000 persone dall'Etiopia in Israele, oppure gli ebrei accolti, più di abbiamo un milione, pochi secondi, diciamo la risposta a Netanyahu è no per ora. La risposta di Netanyahu è che noi siamo bene in Italia, noi siamo, siamo protetti bene in Italia, dalle forze dell'ordine in Italia, grazie, non allora nessun problema, ma ci andremo ovviamente in libertà e non certamente e non costretti. Grazie anche a Laura Faggini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Finisce qui Effetto Giorno, ma ci risentiamo tra poco con le notizie di GR24.